24. Dovete convenirne, Doughty. La scienza non può che essere obiettiva. Obiettiva nell'ideale, ma soggetta alle circostanze, come ogni faccenda umana. In questo caso si tratta di opinione. Eppure ricorderete la disputa fra Wilson e Benjamin Franklin? Quella sul parafulmine? Esatto. È più funzionale un parafulmine lungo e acuminato o corto e smussato? Non ricordo chi dei due avesse ragione, perché gli esperimenti non sono riusciti a dimostrarlo. Tuttavia il re decise di dare ragione a Wilson e adesso le sue teorie stanno nei manuali scientifici e i suoi parafulmini sui nostri campanili. Non capisco dove volete arrivare. Beh, non potranno mai convincermi che quella scelta sia dipesa solo da ragioni scientifiche. Wilson era un Tory, Franklin Whig. Uno era londinese, l'altro coloniale. Uno era protetto da Lord Vattelapesca, l'altro era il rappresentante commerciale della Pennsylvania. Credete che abbia pesato di più l'oggettività scientifica o la ribellione nel New England? Scommetto una guinea che in Pennsylvania issano parafulmini a punta come noi qui li abbiamo tondi. Peter smise di origliare la discussione tra i due gentiluomini che continuavano imperterriti a dibattere. Osservava la sala triangolare della Royal Society col naso rivolto al soffitto, agli scaffali di legno, alle file di libri allineati, fitti come mattoni, che sembravano sostenere le pareti. Camminando a testa in su, rischiò di urtare altri ospiti che lo guardarono risentiti. Si scusò e girò al largo. I titoli sulle grandi scaffalature erano roboanti e incutevano timore. I pochi presenti a quell'ora del giorno discutevano a gruppi di due o tre, a bassa voce. Avevano l'aria di dover risolvere dilemmi fondamentali, affrontandoli con riverenza, in punta di piedi. Lord Warwick, benefattore e membro della società per tradizione di famiglia, gli aveva procurato l'ingresso non appena aveva saputo di quella passione. Per Peter era un interesse risalente all'infanzia a Johnson Hall e ai microscopi di suo padre, che l'avevano sempre affascinato. A Londra c'è un posto dove gli scienziati dibattono le loro teorie e i loro esperimenti. Il re li protegge e assicura che tutti possano giovarsi delle nuove scoperte e invenzioni. Il ragazzo rivide il volto di Sir William sollevarsi dal microscopio e invitarlo ad avvicinarsi per guardarci dentro. Un ricordo nitido di quando era bambino. Aveva sentito la mano calda e pesante sulla spalla mentre guardava minuscoli esseri muoversi sotto la lente. Corpuscoli, Peter, aveva detto suo padre, microbi, esseri talmente piccoli che l'occhio umano non riuscirebbe a vederli senza l'ausilio di questa invenzione, capisci? Peter aveva annuito. Nella stanza della scienza aveva trascorso pomeriggi interi, eterni come possono esserlo soltanto a quell'età. Il tempio dell'incredibile, dove ogni oggetto poteva svelare un lato recondito della natura. Modellini meccanici per il moto perpetuo, trottole a vapore, la camera oscura che mostrava la realtà capovolta. Di nuovo pensò al microscopio. Quanto spazio c'era sopra un vetrino? Quante cose potevano starci? Un intero mondo, un universo. Non era differente dal guardare le stelle e immaginare quante fossero o quanto fosse grande il cielo. Si muovono, si riproducono, muoiono, aveva detto la voce dietro di lui. L'aspirazione di ogni scienziato è scoprire il segreto della vita. Peter aveva alzato la testa e guardato serio il padre. Il pastore Stuart dice che è un mistero di Dio e che volerlo sapere è una bestemmia. Sir William aveva sorriso. Dio ci ha dato gli occhi, le mani e l'intelletto. Credi che l'avrebbe fatto se avesse voluto tenerci nell'ignoranza? Peter sedette su uno degli scranni nella sala delle conferenze. L'odore forte di legno lucidato gli era sempre piaciuto. La puzza di Fleet Street non raggiungeva le auguste sale di Crane Court. La commozione gli gonfiò il petto. Essere lì, nel posto descritto da Sir William tanto tempo prima, era un omaggio alla sua memoria e agli anni felici trascorsi a Johnson Hall, nella valle che era stata tutto il mondo, fino a quando non lo avevano mandato a studiare a Filadelfia. Per quello era voluto andare lì, cogliendo al balzo l'offerta di Lord Warwick. Da solo, accompagnato soltanto dai portatori messi a disposizione dal conte. Peter aveva camminato, a rischio di infangarsi le scarpe, e i due l'avevano seguito con la portantina a vuota e l'aria perplessa, fermandosi ad aspettarlo fuori dall'edificio. Noi non bestemmiamo quando cerchiamo di conoscere le leggi che Dio ha imposto all'universo. Rendiamo omaggio alla sua intelligenza creatrice e ne esaltiamo l'operato. Non pretendiamo di conoscere la ragione divina che ha dato origine alle cose, ma indaghiamo il loro intrinseco meccanismo, la lunga catena di cause ed effetti che le rende come sono, capisci? Peter ricordava di aver annuito per compiacere il padre. Il concetto non gli era molto chiaro, ma gli esseri che si dibattevano sotto la lente attiravano la sua curiosità, e tanto bastava. Solo crescendo aveva capito che la fede di Sir William era qualcosa che si stagliava al di sopra delle confessioni e allo stesso tempo le attraversava tutte. Nella sua valle c'era posto per chiunque. Il re d'Inghilterra e il papa erano molto lontani e il padrone della vita, adorato dai Mohawk, non era indegno ad essere chiamato Dio, anche se ci si rivolgeva a lui in modi selvatici e pittoreschi. Fin da piccolo Peter sapeva che non tutte le cerimonie nella foresta erano indiane. La notte di San Giovanni, nel fitto della boscaglia, si accendevano piccoli fuochi e si parlava gaelico, celebrando messe che la luce del giorno avrebbe proibito. I profughi scozzesi e i coloni irlandesi di suo padre si intendevano con dialetti antichi come le rocce, la lingua della notte. Sir William la usava quando voleva dirgli qualcosa di intimo, che altri non dovevano cogliere. «È la lingua della fede, del sangue e della guerra», diceva. «Non la si parla per caso». L'inglese invece serviva a comandare, a scrivere e a capirsi da un capo all'altro della valle. A Filadelfia gli avevano insegnato anche il francese, la lingua del nemico. Ma era il Mohawk l'idioma che preferiva. Il Mohawk odorava di rum e di pellicce. Era la lingua del commercio e della caccia, dei concili e della diplomazia. Ma prima di tutto, per lui, quella delle ninne nanne. Gli apparve il volto severo di Molly e sentì la presa delle mani piccole e forti, così diversa da quella di suo padre. La stanza della scienza non era mai stata al suo mondo, eppure affascinava anche lei. Considerava gli strumenti di Sir William come interpreti capaci di raccontare la natura nella lingua dei bianchi. Molly si interessava al legame tra microbi e malattie, all'elettricità come cura, alle pratiche dei dottori inglesi. «È una buona medicina», diceva, «ma lascia ammalati sogni». Sogni, amuleti, danze rituali, Peter aveva imparato ad apprezzare anche quelli, come parte della vita nella valle. La madre sembrava esserne il centro, importante quanto il fiume o i prati. Era come se tutto laggiù gravitasse intorno a lei. Non era solo la sua percezione di bambino. Crescendo, quell'idea si era rafforzata e, anche se non poteva comprendere tutti i misteri di Molly, capiva che il suo potere gettava radici nella notte dei tempi. Le canzoni che per anni l'avevano addormentato erano state composte all'ombra degli antichi pini e si tramandavano dall'inizio del mondo. D'un tratto si scoprì nostalgico e triste. Le notizie da casa non erano buone. Se i ribelli si erano spinti fino a Johnson Hall, potevano arrivare a Canajoharie in una giornata di marcia. Molly era in pericolo. Si disse che no, la gente della valle l'avrebbe protetta, sua madre era troppo scaltra per farsi sorprendere. Magari sarebbe partita con la moglie di zio Joseph, portando i suoi fratelli e le sorelle in un posto più sicuro. I ribelli non potevano prendersela con donne e bambini, era piuttosto John a rischiare, il suo fratellastro maggiore. Peter rabbrividì al pensiero che la casa dei suoi primi anni di vita potesse essere saccheggiata. Da sempre i coloni invidiosi non aspiravano ad altro che svuotarla di ogni suppellettile, razziare le dispense, i magazzini, l'armeria e le scuderie, rubare gli schiavi. Avrebbero rubato anche il microscopio e i marchingegni nella stanza della scienza e lui non poteva fare nulla per impedirlo. Certo la pensavano come il pastore Stuart, o anche peggio. Avrebbero infranto le preziose lenti di suo padre, disperso i vetrini e le provette, sfasciato la camera oscura. Il loro dio non lasciava spazio a niente, era piccolo, gretto e ottuso, a immagine e somiglianza dei suoi fedeli. Si alzò a contemplare la grande stanza della scienza voluta da Sua Maestà Giorgio III. Era tempo di tornare indietro. Bisognava combattere quella gente, ricacciarla nel pantano da cui era uscita, impedire a ogni costo che distruggesse quello che suo padre aveva costruito. Ora la cattura di Ethan Allen sembrava poca cosa. Doveva sparare diritto. Difendere il suo paese.